E allora, appunto, come abbiamo detto, parliamo della giornata del 25 novembre e, sotto la regione, quindi iniziamo dalla mattina. Sì, dunque noi ci siamo dati appuntamento sotto la regione Lazio quest'anno, proprio perché, vabbè, so che ne avete parlato tantissimo in radio, però pensiamo che appunto per riassumere un po', la legge Tarsia sui consultori sia, diciamo, delle facce poi della violenza contro le donne, una legge, diciamo, contro le donne, contro la propria, diciamo, determinazione, che va a intaccare una serie di aspetti. Quindi è stata un po' una decisione collettiva, poi frutto di, diciamo, di un percorso di assemblee, di confronti, e cercando di individuare poi quale potesse essere, no, l'aspetto principale di questa legge, perché in effetti è una cosa, no, molto completa, che attacca vari aspetti. Però io credo che riassumere la legge nel dire questa è una legge che che va contro le donne, quindi è una violenza, diciamo, di Stato, una violenza delle istituzioni contro le donne, io credo che sia stato un modo, diciamo, importante per esprimere, diciamo, quello che sta succedendo, cioè come evidentemente le vite delle donne vengono calpestate in nome di altro, quindi, diciamo, da parte degli interessi dei privati per quello che avviene ai consultori, però dall'altra, cioè, che in effetti si annulla del tutto la salute, insomma, così. Poi la giornata in sé, io penso che verrà drenata un po' così, ci saranno varie espressioni, la piazza è composita da, diciamo, dai sindacati confederali a, diciamo, ai collettivi, alle, diciamo, assemblee di donne che hanno partecipato a questo percorso, quindi credo che poi l'espressione ognuna diciamo porterà quelle che sono i propri ragionamenti, le proprie elaborazioni, e penso che sia comunque un appuntamento veramente importante in quest'anno, perché questa campagna comunque va al di là del 25 novembre. Questa è una data che noi, cioè, abbiamo scelto di utilizzare da una parte all'altra, una data di passaggio, per poi arrivare magari un giorno a fare da una parte qualcosa con queste firme che stanno raccogliendo, dall'altra, diciamo, ad andare proprio sotto, cioè iniziare a ragionare veramente di come attaccare questa legge. Quindi io chiaramente invito tutte a partecipare alle 10 sotto la regione Lazio. Non è proprio la rotatoria, è uno spazio che sta dietro a un'altra, sono varie entrate poi della regione, quindi un po' bisogna cercare. Vi troveremo. Speriamo che ci sia poca polizia, perché poi in realtà dopo ci sarà anche un corteo che arriverà là, non saprete, insomma, c'è un corteo, sì, che sì. No, sì, il corteo delle vertenze che parte da Porta San Paolo e, esatto, arriva proprio sotto, e quindi la regione. Ci sarà una convergenza di piazza, noi, cioè, chiaramente c'è una parte della piazza che accoglierà, diciamo, con anche condividendo, no, le rivendicazioni di quel corteo, forse altri un po' meno, però io penso che sia anche un momento importante per unire un po' anche le varie vertenze, sorreggere, cioè, a dare visibilità a tutte, anche, cioè, noi come collettivo abbiamo anche stesso chiaramente delle relazioni in questo momento con l'altra piazza, perché crediamo che comunque le due piazze non si debbano sovrapporre, eccetera, ma assolutamente mantenere un'indipendenza, un'autonomia del discorso, delle rivendicazioni, ma rispettandosi, insomma, in piazza. Quindi anche questo è un passaggio che abbiamo fatto, una giornata complessissima, molto particolare, perché c'è stata la votazione, poi sul DDL e Gemini, insomma, abbiamo cercato di tenere tutto dentro. Io spero che, insomma, che quella giornata veramente sia una giornata importante, che faccia dei passi avanti magari su questa questione della Tarsia, che magari ponga veramente il punto di quanto in realtà non c'è consenso da nessuna parte, si stanno susseguendo anche poi anche i municipi si stanno prendendo parola, insomma, e la cosa sta un po' crescendo su questo aspetto qua, anche a livello delle amministrazioni. io penso che cioè, la raccolta firme va in una maniera assurda, cioè, io so che c'è più gente di quanti hanno firmato per l'acqua, ad esempio, cioè i banchetti hanno più gente intorno di quanti hanno firmato per l'acqua, quindi per descrivere un po' qual è, diciamo, anche la risposta, no, che è importante. Quindi io spero che, insomma, riusciremo a porla in maniera definitiva questa cosa, farci che qualcosa in quella giornata, insomma, succeda, qualcosa di positivo. Essendo una giornata importante, sarebbe un punto importante da segnare in questa città e nella gestione regionale, insomma. Va bene, noi ti ringraziamo molto, sei stata chiarissima, e allora ci vediamo alle 10 alla via Rosa Garibaldi, insomma, da quelle parti. E grazie. Va bene, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.